Beh, questi sono i Gas Nevada, se non vado errato. 1978 giù di lì. 9? No. La, questo è stato fatto nel 77. In via Clavatura, immagino, in una casa occupata. Da che ne so io, nacque il progetto in una casa occupata in via Clavatura. Sì, no, il progetto Gas Nevada, che poi allora si chiamava Centro Duro Metropolitano, nacque in questa casa occupata di via Clavature, dove poi c'erano anche scozzari, giravano scozzari, pazienza, e tutti gli altri fumettari agli inizi di quegli anni. E, no, beh, questo pezzo è stato fatto in una prima versione che era allegata e che era stata inserita nella cassetta Sarabanda, che fu distribuita durante il convegno sulla repressione del 77, del settembre del 77. Ed era, c'erano tanti artisti, però erano quasi tutti simil cantautori. Questo era l'unico pezzo che era completamente fuori dai coppi, come diciamo noi a Bologna. non va, vabbè, allora... E come fu l'intercettazione di questo strano combo di personaggi, diciamo, vagamente fuori dagli schemi? L'intercettazione avviene un po' per vie traverse, ovviamente, nel senso che sempre lì attorno al convegno c'era uno dei nostri, dei soci della nostra cooperativa, che non socio, comunque uno col quale collaboravamo molto, era una piccola struttura che si chiamava Humpty Dumpty, che era costituita da Nino Iorfino e da Luigi Germandi, che si preoccupavano di lavorare con le radio libere che erano nate tante in quegli anni, distribuendo del materiale. E noi avevamo iniziato a collaborare con loro proprio per distribuire. Noi volevamo provare a fare, produrre un po' di musica appunto fuori dagli schemi tradizionali, e quindi la collaborazione con questa struttura che distribuiva tramite circuiti alternativi questo materiale era importante. E infatti facemmo la Sarabanda fu prodotta da loro, e quindi ovviamente prodotta, nel senso che si curarono la distribuzione, insomma, di questa cassetta, che era stata prodotta comunque da chi aveva organizzato il convegno sulla repressione. E ovviamente era un pezzo che in qualche modo ti colpiva. Dopodiché è passato un po' di tempo, noi abbiamo avviato la nostra attività discografica, non tanto discografica, perché noi facevamo cassette all'inizio, e abbiamo fatto il famoso primo disco degli Schiantos, inascoltabile, che non era sotto forma di cassetta, e tramite loro ne vendemmo ben 500 copie, che era per i tempi un risultato clamoroso, pensando che erano cassette pure semplici. E quindi da lì poi parte questa avventura di provare a fare altri, a lavorare su altri gruppi di Bologna. E quindi il primo gruppo a cui io ho pensato per cominciare a lavorare sono stati appunto loro, che nel frattempo erano diventati Gas Nevada, non erano più Centro Duro Metropolitano, e avevano cominciato a fare dei concerti al Pancreas, che era questo locale, questa cantina un po' malfamata in pieno centro Bologna, dove in quell'anno e mezzo che è stato aperto sono passati tutti i gruppi di Bologna che in quegli anni suonavano, per cui andando lì li sentivi anche dal vivo, insomma. Quindi i Gas Nevada fecero tra l'altro tre sere in cui rifecero tutti i pezzi dei Ramones, che era un progetto speciale che si chiamava Gas Nevada Sing Ramones. E, insomma, comunque lì ci siamo conosciuti meglio. Poi, insomma, non è stato semplice l'approccio, perché loro caratterini mica semplici già fin da subito. Però, insomma, visto che io avevo lo studio dove potevamo lavorare abbastanza tranquillamente, pian pianino siamo riusciti a mettere insieme questo progetto, e comunque quel pezzo l'abbiamo riregistrato. Ovviamente non abbiamo utilizzato la prima versione che era stata fatta per Sarabanda, perché era comunque già diversa la storia anche per loro, insomma. Poi man mano che un gruppo cresce cambiano anche i suoi riferimenti, quindi ha sempre voglia di provare a fare delle cose diverse, quindi così. Questa è in qualche modo la storia. Beh, comunque si misero di buzzo buono, cioè dall'eroina a provare a disegnare a dire ok, dai, suoniamo sul serio. quello sai, alla fine... Comunque, era l'epoca. Comunque sai, la musica sempre, in quegli anni in particolare, aveva anche una molta più forza aggregativa, era molto più al centro della vita dei giovani in qualche maniera, cioè la musica, attorno alla musica girava tutto il mondo culturale dei giovani in quegli anni, quindi era quasi inevitabile che uno che si sentiva portato a fare, a esprimersi in quella direzione, ovviamente provasse a. Poi la forza dei Gaznavade era che in quegli anni erano cinque persone con caratteri, uno veramente completamente diverso dall'altro, che però dalla tensione che anche si scatenava tra di loro, poi uscivano fuori le cose più interessanti, insomma. Allora, sono le 19.25, siamo sempre in diretta in Piazza Pontoni con Maurizio Marinelli e Oderso Rubini. Prima che Maurizio ci saluti, che tra poco ci lascia, volevo fare un'altra piccola parentesi per poi tornare ancora al nostro contesto musicale bolognese, e volevo chiedere a Maurizio un'opinione sulla Bologna creativa di oggi. Allora, il tuo progetto continua, è ancora attivo, certo. Sono una trentina d'anni, però come vedi il contesto in cui anche il tuo progetto è inserito? Ammetto che il lavoro, diciamo, la Baskerville sono le rose, il pane lo acquisto lavorando, facendo altre attività, mi occupo di comunicazione, mi occupo di attività editoriali in altri settori, e il tempo è molto poco. In più io abito a Modena, quindi io sono un pendolare. Eri allora già un pendolare. Sì, sono sempre stato un pendolare. Ho la pendolarità endemica. Adesso vado avanti e indietro in auto, ma allora era il treno il luogo in cui noi pendolari di Carpi, io sono di Carpi, Vicky era di Correggio, altri amici erano di Modena, la pendolarità era determinante perché ci consentiva di cambiare stato. Noi eravamo quelli della periferia che mangiavano e si rimpinzavano di tortellini la domenica. Alla domenica. Ed Lambrusca, e poi venivamo qui, quindi qui eravamo i pendolari, anche tu, qui eravamo i pendolari privilegiati, e a casa però eravamo quelli di Bologna, insomma, quelli che erano dentro il movimento, quindi riuscivamo con questa schizofrenia a difenderci in entrambe le situazioni e a stare meglio degli altri, forse. Io credo per 3 mesi mi sono litigato con il cibo dentro al frigorifero in una convivenza disastrosa a Bologna. Poi dopo sono tornato ad essere pendolare. E questa pendolarità ci aiutava anche a fare dei progetti, perché la Baskerville è nata quando Pier Vittorio Tondelli, dopo aver pubblicato Altri Libertini, che è la nostra storia, la mia storia, la storia di noi di carpigiani e correggesi su e giù per l'autostrada del Brennero, dopo che ha pubblicato quel libro lì, il progetto di fare una casa editrice nacque da Pier Vittorio Tondelli, che ci propose di fare un libro suo privato e personale per Natale, e come succedeva in quegli anni c'era costantemente un gioco al rilancio, no? Uno ti diceva: ma perché non suoniamo stasera? No, facciamo un gruppo, no, facciamo una casa editrice musicale. Cioè, il gioco del rilancio ha prodotto di fatto che quando Vicky ci ha chiesto di fare questo piccolo libro per lui e da regalare ai suoi 24 amici, noi abbiamo rilanciato e abbiamo detto: beh, facciamo una casa editrice. Ed è tutto cominciato così, ed è cominciato durante i viaggi in treno. Questo per dire che io sono un pendolare anche oggi, vivo molto in fretta a Bologna, in questo momento corro costantemente e quindi non sono in grado di valutare la situazione della creatività, soprattutto di generazioni più giovani della mia, ovviamente. Ho partecipato, ho sostenuto Bologna Creativa, gli stati generali sulla creatività e sulla città, no? Di Bologna l'anno scorso, e mi sono reso conto anche partecipando a questi incontri di che potenzialità avrebbe questa città. Questa città è un luogo di attività per lo più sconosciuta agli altri, cioè tu sai quello che stai facendo tu. Io conosco la rete di subforniture che mi consentono di fare l'attività editoriale. Io, oltre a Baskerville, seguo altre attività editoriali, e la struttura delle subforniture, cioè dei supporti operativi che ti consentono di fare un lavoro di qualità che altrimenti dovresti fare con una struttura molto più ampia, è enorme a Bologna. Quindi a Bologna, per quanto riguarda le cose che conosco io, cioè l'editoria, è veramente una delle capitali italiane. redattori, servizi di post-produzione, servizi di supporto alle attività intermedie, di editing e di lavoro editoriale. E credo che Oderzo possa dire altrettanto per quanto riguarda il lavoro sulla musica. Quindi credo davvero che Bologna avrebbe bisogno di una valorizzazione di tutto questo sistema di reti e di network che esistono e che però non sono, come dire, pubblicamente conosciute. Agli incontri che abbiamo fatto, coordinati da Matteo Lepore, che adesso è un assessore, che cercavano di far venire fuori questa realtà, è veramente emerso un panorama splendido e importante, e che potrebbe, se riuscisse a diventare sistema, potrebbe aiutare anche a qualificare la professionalità e quindi a produrre ricadute sull'occupazione e sulle attività anche di chi in questo momento è fuori dal mercato del lavoro. Quello che manca allora è più l'appoggio istituzionale oppure l'incapacità di fare rete? Ma sai, le due cose si producono a vicenda, cioè c'è una mancanza di capacità di fare rete perché ognuno in fondo coltiva il proprio orto, e poi io per esempio non conosco i subfornitori e i supporti operativi di Oderzo per quanto riguarda la musica, e lui non conosce nel dettaglio quello che io uso, qual è la mia rete. Ecco, una capacità istituzionale di rendere visibili queste reti produrrebbe molti vantaggi, così come la nostra disponibilità a partecipare alla diffusione e alla condivisione delle nostre conoscenze, del nostro know-how, e quindi generare in fondo, per quello che Bologna può dare con un'università così grande, così importante, quello che potrebbe dare per farla diventare la capitale del lavoro editoriale e intellettuale italiano dal punto di vista della produzione dell'industria culturale, musica, editoria, ma non solo, cinema, audiovisivi, sistemi di reti, internet, tutto quello che c'è. Credo davvero che Bologna ha bisogno solamente di una spinta che può venire dalle istituzioni, e credo che Matteo stia lavorando su questo e che forse potrebbe dare dei risultati nel prossimo futuro. Credo che le potenzialità ci sono tutte. Salutiamo l'assessore Lepore che è stato qui presente bene. Nei giorni scorsi. Bene. Ringraziamo Maurizio per questo intervento e speriamo che questo augurio abbia un seguito, speriamo che si realizzi tutti, in qualche modo. Grazie Maurizio. Ciao Maurizio. Per salutare Maurizio mettiamo un bel pezzo. Stupid Set. Bye. abbiamo ascoltato Stupid Set, Hello I Love You, dall'omonimo EP del 1980, prodotto da Italian Records, pezzo di ispirazione dorsiana del 65, però almeno il testo è lo stesso. Sì, è dichiarato. Dichiaratamente quello. Sì. Non potevamo fare un plagio così evidente. Perché in quegli anni funzionava molto la questione delle covers. Nel senso che le covers allora si usavano per far capire qual era la distanza tra l'artista originale e invece un nuovo artista che voleva reinterpretare, ti faceva capire qual era la distanza proprio musicale, sonora, tra i due mondi. Adesso le cover si fanno con altre motivazioni fondamentalmente, anzi addirittura adesso ci sono le cover band che poi in realtà sono tribute band più che cover band, però che vogliono fare esattamente uguale ai gruppi originali, che insomma sembra è una cosa davvero divertente, ma non è stimolante da un certo punto di vista. Non è stimolante, si legge un intento prettamente commerciale. Sì, beh, ovviamente sì, c'è quell'aspetto lì, c'è anche l'aspetto del divertimento, perché io non dimentico mai che per fare musica per qualunque persona c'è prima un aspetto del gioco, c'è la parte del gioco, per cui se uno realizza che non ha delle qualità musicali così forti da poter proporre le proprie cose, magari invece si dedica a questo gioco e si diverte comunque, insomma, quindi ha una sua funzione in ogni modo, sociale in ogni modo, anche se non è strettamente creativa, diciamo così. A proposito invece di divertimento e di creatività, vorrei che ci raccontassi qualcosa a proposito dell'Harpo's Bazaar. La tua prima, sì, forse, se non dico male, esperienza nell'ambito, insomma, sì, beh, come in qualche modo accennavo prima, noi un gruppo di studenti squattrinati fuori corso, alcuni in corso, insomma, vabbè, però con una grande voglia di non infilarci nel mercato del lavoro tradizionale e avendo tutti delle attrazioni fatali per oggetti ed eventi artistici, decidiamo di costituire sull'onda appunto del convegno sulla repressione, decidiamo di costituire questa cooperativa. Dovevamo essere almeno 9, ovviamente, quindi insomma si crea un gruppo abbastanza strano e in qualche modo disomogeneo, però al tempo stesso eravamo tutte persone che in qualche maniera eravamo complementari l'una all'altra, per cui c'eravamo io e Carlo Cialdo Capelli, che aveva frequentato con me il corso di musica elettronica del conservatorio, che ci occupavamo strettamente di musica e di audio in generale. Poi c'erano altri allievi di Celati che si occupavano strettamente di cinema, c'era la mia fidanzata di allora che si occupava di grafica, e c'erano altre due o tre persone che per simpatia più che altro comunque avevano voglia di starci vicine, di lavorare assieme a noi, per cui insomma abbiamo costituito questa cooperativa e abbiamo provato a vedere se riuscivamo a vivere la nostra vita senza dover andare a fare un lavoro classico tradizionale, con tante difficoltà ovviamente e anche con tanti rischi, però per noi in quegli anni c'era il credo fondamentale, era quello di osare, cioè noi poi forse anche inconsciamente, no, abbiamo osato in diverse situazioni, però era l'unica cosa che potevamo tentare di fare, non è che potevamo stare lì a tanto barcamenarci, quindi niente, facciamo questa cooperativa, cominciamo a provare a inserirci nel mercato del lavoro tradizionale facendo cose anche per guadagnare soldi, insomma non solo cose artistiche e creative, però con l'obiettivo di poi dedicare sempre più tempo alle cose che ognuno di noi voleva fare, io a produrre dischi, altri a produrre film, a fare film, altri a occuparsi di grafica, insomma a livello alto, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo, dopo aver costituito questa cooperativa, abbiamo fatto le nostre brave cambiali, ci siamo presi i nostri bravi rischi, mi ricordo ancora perché era 8 cambiali da 1 milione, 9 cambiali da 1 milione l'una. che tutti i mesi dovevamo pagare, ovviamente. E arrivavamo sempre con un po' di patema d'animo, però ce l'abbiamo sempre fatta. E quindi facevamo lavori di diverso tipo, fino a che poi pian pianino ognuno ha preso ovviamente una direzione più forte, no? Quindi io, dedicando molto tempo a lavorare con i gruppi in studio, ovviamente mi sono indirizzato molto in quell'area. Poi all'inizio ovviamente non è che avevamo avuto l'intuizione di fare proprio una vera casa discografica, è stato anche un po' il caso che ci ha portato ad arrivare a un certo punto a costituire questa nostra etichetta, perché all'inizio ovviamente noi l'abbiamo fatto per lavorare con i gruppi e aiutare i gruppi locali. E poi però ci sono stati due o tre episodi che ci hanno fatto capire che potevamo osare, anche perché non era un mestiere che noi avevamo imparato da qualcuno, insomma ce lo stavamo imparando sulla nostra pelle in qualche maniera, e non è facile, perché in quegli ambiti lì è molto difficile. Però per esempio, riprendendo il discorso che faceva prima Maurizio sul marketing eccetera, anche noi o le indagini di mercato, insomma, ovviamente, ma per noi non esistevano le indagini di mercato. Il marketing ovviamente noi ce lo siamo inventato, ma molto spontaneamente. Poi dopo, col senno di poi, ci ragioni, dici: ah, però quella roba lì in qualche modo si può riferire a un'operazione di quel tipo. Però ce le siamo inventate di volta in volta, mettendoci appunto sempre molta creatività, lavorando molto in gruppo, ecco, questo sì. Io devo dire che c'era una capacità di lavorare tra le persone molto importante e significativa. Non è stato sempre così. Diciamo che fino all'80-81 questo è stato abbastanza vero dovunque. Poi c'era la piazza. Adesso c'è la piazza virtuale, che però ancora non è... diciamo che non è ancora assunto quel ruolo così determinante che ha avuto il fatto di che allora ci si incontrava in piazza, cioè noi ci conoscevamo tanti in piazza, ci si incontrava, si facevano le cose assieme perché ci si vedeva continuamente da qualunque parte, quindi, e c'era molto questo spirito di collaborazione e non di gelosia, fondamentalmente, perché spesso poi succede che nei lavori la gente dice: ma perché no, non devo far sapere quello si che sto facendo, sì, piccolo. Esattamente, noi invece cercavamo di aprire a tutti i livelli. Ti faccio un piccolo esempio: a un certo punto, ovviamente, quando noi partiamo con la nostra attività discografica facciamo appunto un'operazione di marketing così intuitiva, però spendiamo tutti i soldi che ci dà la casa discografica come anticipo royalties, li spendiamo in una campagna pubblicitaria sui giornali musicali specializzati, e a quel punto noi diventiamo il punto di riferimento della musica indipendente italiana. Cominciano ad arrivare artisti da tutte le parti, da tutta Italia, e noi ovviamente non potevamo stare dietro, eravamo in tre a lavorare, sai, sulla parte musicale, non era proprio fisicamente impossibile riuscire, però bisognava fare la scena. La scena non c'era, c'erano sì tante piccole cose, però erano tutte un po' sparse, bisognava fare la scena, e allora bisognava ampliare molto il numero delle produzioni che andavano sul mercato, che venivano indipendenti, che venivano distribuite, eccetera, eccetera. E quindi, di conseguenza, per fare questo, io a un certo punto ci inventiamo delle altre etichette alternative e creiamo dei gruppi di lavoro che collaborano con noi. Noi non potevamo fare tutto direttamente, quindi bisognava che a fianco avessimo delle altre strutture che collaboravano, non solo di Bologna, tra l'altro, anche di altre città, perché avevamo un gruppo a Parma, lavoravamo con i pordenonesi, con Pordenone, abbiamo anche un pochino lavorato con Firenze agli inizi, poi dopo Firenze per sua fortuna è diventata autonoma, però insomma con Roma abbiamo lavorato spesso e molto. Per cui insomma si trattava di creare, e in alcuni casi quando c'erano dei singoli gruppi cercavamo di indirizzarli, di aiutarli a sviluppare un progetto, però perché in quel momento l'importante era creare la scena in qualche maniera e fare capire a tutti che c'era un movimento che cresceva, che si allargava e che poteva dare delle risposte di mercato. Poi ovviamente dopo le cose si complicano, quindi non è mai semplice poi arrivare a gestire fino in fondo i processi, però effettivamente da quel punto di vista siamo riusciti a dare un bel segnale a tutti quanti, e il segnale per fortuna è stato recepito da tante altre situazioni e persone, poi ognuno è cresciuto singolarmente, regolarmente, però in quel momento era importante lavorare assieme. Mentre dopo, per esempio, ho sempre avuto un mucchio di gelosie, diciamo così, oppure di paure, ma faccio quella cosa lì dopo, se ci sei tu lo impari, no perché mi copi, queste cose un po' banali e tristi che non servono a niente, perché non, se uno ha le idee non hai bisogno di copiare dagli altri ovviamente, e se hai paura che qualcuno ti copi vuol dire che la tua idea non è abbastanza forte, detta in soldoni, sì. Per cui comunque sì, insomma, l'esperienza poi a un certo punto è finita come cooperativa, come Arps Bazar, perché era venuta l'esigenza di gestire anche somme di denaro molto più consistenti di quelli che con la cooperativa potevamo gestire. Poi alcune persone della cooperativa non avevano trovato una loro strada, per cui erano un po' inermi, eccetera, eccetera. Quindi è stato quasi naturale arrivare a costituire delle società di capitali, diciamo così, facciamo un SRL, dopo trasformammo la cooperativa in una SRL, anche perché avevamo bisogno di fare le edizioni musicali, insomma ci sono tutta una serie di attività e procedure che devono essere fatte per far sì che tutta la macchina stia in piedi. Poi dovevamo stampare i dischi di artisti stranieri per l'Italia, quindi anche lì bisognava avere una struttura che fosse molto agile anche nella gestione delle risorse. Quindi trasformammo la cooperativa in società, e poi d'altra parte la società che facciamo allora esiste ancora oggi. Esiste ancora oggi, non tanto la mia, perché io poi sono uscito a un certo punto e ho fatto altre attività, altre cose, altre etichette, eccetera, però l'attività originale, la società, esiste ancora oggi, è abbastanza consolidata nel mercato, e quindi voglio dire, anche questo credo che sia un bel risultato, insomma una società che dura 30 anni e passa, insomma sempre in dimensioni comunque micro, mai in dimensioni grandi, in questo aveva ragione Maurizio, insomma le dimensioni piccole si riescono anche a gestire per tanto tempo, dimensioni grosse a un certo punto prendono una strada o ne prendono un'altra, quindi è più complicato. Sempre a proposito allora di creatività e di collaborazioni anche con contesti piccoli, indipendenti, ricito Pordenone per presentare il prossimo pezzo dei Great Complotto. Everybody don't want, and everybody says that we the center, we got a future, but the thing that's not so nice, and we want for the future life. More energy, more energy, more energy, more energy for you. More energy, more energy. The telephone number 34904 to have the first information about it. From Paolo, go to the center bureau of a great complotto in the ex Fiera. Release the touristic agency for the Noe for holiday. Sono David Kirby. Mi sono autodesignato per annunciarvi la storia della stirpe nauniana. La nostra genia è il risultato di una spietata selezione avvenuta attraverso le svariate ere terrestri per un volere divino. Ognuno di noi è stato colpito da un fascio di energia cosmica proveniente dall'universo. Successivamente, un'incredibile forza magnetica sviluppatasi dal fiume Naon ha attirato ad uno i prescelti sulle proprie rive, traboccanti di scorie atomiche. Naon è un fiume di scorie atomiche grazie al fatto che Pordenone vanta il maggiore potenziale megatonico segreto dell'universo. Così si è formato il Greek Complotto. State ascoltando Pordenone for Holidays, l'unica guida turistica della vallata del Naon. Thank you. Eccoci in piazza Puntoni, mancano 10 minuti alle 20, abbiamo ascoltato un pezzo dei Great Complotto e subito a seguire un pezzo degli Hitler SS, dico bene? Hitler, contenuto sì, sì, sempre nell'EP del 79 dei Great Complotto. Esatto. Questa dimostrazione del fatto che anche piccole band mantenevano contatti ben vivaci. Sì, guarda, questa la devo raccontare perché è divertente. Quel disco l'abbiamo registrato in una maniera molto bizzarra, perché i ragazzi di Bordenone erano quasi tutti minorenni e poi non c'erano soldi ovviamente, per cui loro partivano abitualmente o alla sabato sera o alla domenica mattina molto presto. Se partivano il sabato sera, quando arrivavano a Bologna da Pordenone dormivano in macchina. Se partivano la domenica mattina, appena quando arrivavano ci trovavamo in studio, poi lavoravamo in studio tutto il giorno e loro la sera ripartivano per Pordenone. E questo l'abbiamo fatto con praticamente quasi tutti i gruppi che sono contenuti nell'LP, che sono 12 o 13, una roba del genere. Ed era buffo perché quando io arrivavo la mattina, che li vedevo con le facce stravolte, dici che adesso che cosa combiniamo? E invece c'era sempre una voglia di fare, di mettersi alla prova, di fare questa cosa che poi era contagiosa. Quindi ci siamo, devo dire che è stato uno dei progetti più divertenti che ho seguito, perché tra l'altro non c'era ovviamente continuità, nel senso che ci si vedeva una volta alla settimana, perché magari le tensioni spesso saltano fuori quando stai tanti giorni in studio con le stesse persone, allora poi a un certo punto magari un po' di tensione viene fuori. Invece in quel caso lì proprio non c'era né tempo né voglia né la possibilità che questo succedesse, per cui era un divertimento comunque. E allora, no, lo raccontavo perché è sempre abbastanza divertente, singolare. Poi voglio dire, non sono stati i primi né saranno gli ultimi che fanno dei sacrifici per fare il loro disco, ovviamente, ci mancherebbe, però ovviamente è stato divertente. I retroscena sono sempre molto, sì, significativi. Sì. Allora, tu sei riuscito in questi 30 e più anni di attività a registrare il cambiamento dalla scena punk, subito dopo ci si sposta verso la scena new wave. Sì. Sì, diciamo che fino all'86-87 mi sono occupato quasi sempre di rock, collaborando anche con il giornale mensile Fare Musica di Roma, facendo anche una piccola etichetta con loro, per produrre i gruppi che vincevano il concorso fatto dal giornale. E poi però, quando a un certo punto, cioè tutte le cose poi succedono perché ci sono tante cose che si mettono assieme. La racconto anche questa cosa qua, questo piccolo episodio, perché è significativo per come poi nascono i progetti. Nel senso che io avevo, a un certo punto comincio ad avere alcuni amici che hanno suonato nei vari gruppi anche degli anni 70 a Bologna, non quelli del periodo rock, ma quelli di prima. Alcuni di questi amici, tutti musicisti bravi, bravissimi, che cominciano a portarmi del materiale di musiche particolari, diciamo, non strettamente legate a un ambito rock o pop. Erano musica appunto strumentali o comunque molto d'atmosfera, eccetera, eccetera. E io subito, ovviamente, quando me le portano, le ascolto volentieri, però poi non mi viene in mente come collocarle. E insomma, queste cose rimangono lì e me ne portano, però vedo che il flusso di persone che cominciano a portarmi questo materiale, insomma, aumenta. Poi io faccio un viaggio negli Stati Uniti, che cerco di fare abitualmente almeno una volta all'anno, e faccio un viaggio negli Stati Uniti e ovviamente, arrivando negli Stati Uniti, vado a visitare i vari negozi di dischi, Tower Power, no? Che hanno già chiuso, tra l'altro, erano catene, però erano molto grosse. Insomma, questi negozi di dischi fantastici dove trovavi di tutto. Tower Records, è vero, non mi ricordavo, è vero, Tower Records, sì, perché ha chiuso un po' da un po' di tempo. E quindi andavo a vedere questi negozi fantastici e realizzavo che c'erano nel corso del tempo i reparti che si occupavano di musica strumentale aumentavano di dismisura, cioè c'era una diffusione di questo materiale enorme. Quindi quando torno in Italia metto assieme le due cose e poi mi chiedo, ma io adesso a chi vado a proporre questa cosa? Faccio una veloce analisi di quello che c'è in quel momento e sapendo che la Virgin di Records aveva iniziato da un po' di tempo a fare dischi con la Real World di Peter Gabriel, dico, provo ad andare alla Virgin Italiana. Vado alla Virgin Italiana e gli chiedo se sono interessati a fare una collana di musica strumentale, diciamo strumentale perché non era strettamente il New Age quella che facevamo qui da queste parti, così. E ovviamente con mia grande sorpresa, ovviamente me lo auguravo, però non è che ho fatto tanta fatica, sono andato, gliel'ho proposto, mi hanno detto sì, va bene, facciamo in questo modo, in quest'altro modo, ci siamo messi d'accordo velocemente e quindi a quel punto dovevo produrre 6 dischi all'anno almeno, e quindi a quel punto mi sono dovuto organizzare per fare questa cosa, insomma. Quindi allora ho ricominciato a riselezionare i vari materiali e ho scelto ovviamente quelli che mi sembravano ancora una volta più interessanti e più adatti, alcune cose di Bologna ovviamente, anche parecchio significative devo dire, altre cose di altre città. Però ho raccontato tutto questo per spiegare come nasce poi alla fine, cioè mettendo assieme tante cose, però questo succede se tu sei attento, hai curiosità, sai dove andare a verificare come stanno le cose, eccetera, eccetera. E quindi c'è stata questa fase, diciamo così, legata alla musica strumentale, che è durata qualche anno. Poi c'è stato una sorta, a un certo punto abbiamo costituito anche alcuni produttori di musica rock, con anche alcuni abbastanza conosciuti, abbiamo fatto questa associazione che si chiamava Union, perché volevamo provare come associazione a fare dei progetti che provassero ancora una volta a creare un mercato per il rock in Italia, perché ancora, per quanto le cose funzionassero in alcuni casi, insomma, le vendite erano sempre limitate alle 5, 6, 8 mila copie, insomma, mai niente di così decisivo. E quindi decidiamo di fare questa associazione con, tra l'altro, il produttore dell'ITFIBA, Alberto Pirelli, con Francesco Fracassi, che era il produttore dei De Novo e degli Avion Travel allora, con uno dei Corvi che aveva una sua etichetta con i Rez e altri. Insomma, facciamo questa associazione, realizziamo una sorta di almanacco da allegare, da regalare a chi andava a acquistare questo disco, che facciamo facendo fare ai gruppi più importanti di quegli anni la cover di un pezzo italiano della canzone d'autore. Tra l'altro gli Litfiba fanno per esempio Il tempo di morire di Battisti. E ancora una volta tutto questo per cercare di mettere a confronto una versione molto conosciuta, un originale, con invece la capacità, la espressività musicale di un gruppo originale. E la cosa ovviamente funzionò in questo caso, perché poi da lì la Polygram fece un'etichetta, la Blackout, esatto, da cui poi e i Litfiba cominciarono poi a avere il loro grande successo e altri gruppi a seguire, per cui dopo da lì in poi è stato un alternarsi nelle varie situazioni. Però poi a me, io sono curioso, a me piace girare nei vari generi, sempre per divertirsi. L'ultima cosa che ho fatto è una cosa che non c'entra niente né col rock né con la musica strumentale. Ho fatto un disco con il gruppo carinistico Budriese, un gruppo di ocarine, che è il Settimino per Ocarine, chiedendo dei compositori di comporre delle musiche moderne per questo gruppo, che è molto particolare da sentire e da ascoltare. Però questa cosa sta funzionando un casino. Oggi per esempio c'era una pagina sulla Stampa, stiamo andando a fare concerti in giro per il mondo, questa cosa funziona molto in Oriente, però è una cosa che non c'entra niente con quello che ho fatto prima, però certo. C'è sempre l'idea della sfida, del provare a fare qualcosa o fare funzionare qualcosa che tutti quanti pensano che non possa avere molte prospettive, quindi rimane sempre questo aspetto, questa idea di provare sempre a sfidare quello che tutti pensano che non possa succedere. Questa è una bellissima conclusione, perché purtroppo le campane ci avvisano che sono le 20 e dobbiamo salutare Oderso, però lo salutiamo con un altro pezzo che conosce molto bene. Grazie Oderso. Grazie a voi e buon lavoro a tutti.